4H. Ascolta e trasforma. Gli studenti preferiscono il caffè amaro. Lo studente preferisce il caffè amaro. Le rose fioriscono a maggio. La rosa fiorisce a maggio. Gli specialisti garantiscono buoni risultati. Lo specialista garantisce buoni risultati. I bambini non obbediscono. Il bambino non obbedisce. Gli amici suggeriscono una soluzione. L'amico suggerisce una soluzione.